Passera. Gianfranco, sì. Sì, capace, ma fa lì. Ciao Gianfranco, buonasera. Ero fuori, ma non fanno stare fuori. C'è un freddo, per carità. Non c'è nessun altro, ma fa. No, negativo. Sembra... sembra che siano tutti morti. Non è molto... non è molto popolata. No, ma non sta piovendo, ha messo più, cioè non sta piovendo, ma fa freddo. Ho dovuto accendere la stufa io. Sto facendo freddo, sì. Sì, così poi... così è molto brutto da caldo a freddo, temperature troppo variabili. Sto cercando cosa ci c'è per domani, vediamo se migliora. Aspetta, ho acceso la tuta doppia perché oggi c'era freddo. Ma gli altri non entrano più, Marco, Gianni, compagnia cantante. E Gianni sta lavorando di sera, Marcolino non si sta più entrando, Claudio più poco, cosa vuoi ti dico? Eravamo io, Giulio, ieri, Franco è entrato, e uno di ottava mi sa. Sì, ho capito. Ma il... è veramente poca, cioè, ma vabbè, Claudio lo capisco perché ha preso la casa e non è una cosa abbastanza pesante, però gli altri cosa sono davanti alla televisione? Marco si guarda cosa? Si guarda la televisione e non ci sta entrando. Cosa è successo a Claudio? No, Claudio sta seguendo la casa, no, che deve rendere. E quindi è chiaro che è impegnato, lui è giustificato. Ho capito. È impegnato. E quindi non entra. Cosa vuoi dire? Gianni sta lavorando e fa il turno di sera, inizia alle 9 di lavorare, quindi non può entrare perché non c'è più nessuno allora che è qui. Capito? Sì, quello sì. Ma io la televisione la guardo solo la notte, diciamo, dalle 8 e mezza, 9 in poi. Ma quest'ora chi è che la guarda? Era mia moglie, mi sono allontanato. Figlia si vecchiava, capito? Adesso sta tornando a uscire che ha portato il cane. Ti dici, magari la temperatura si sente un pochino di meno, ma qua quando esci veramente, come si dice, sta stare se ti cancareggia. Sì, anche qua, perché ho dovuto accendere la stufa, perché avevo freddo. No, dentro si fa meglio perché c'è anche la frequentazione, capito? Quindi quando proprio va male ci sono 17 gradi, ma proprio quando va male. Ma per sicurezza ho acceso anche il condizionamento, quindi in realtà adesso aumenta, sale fino a 21-22 e va bene. E niente. Ma quest'ora qui in televisione ci sono tutti quei programmi spazzatura, non ho mai capito la gente come sta a guardare. Marco si guarda a Bonoli, si guarda, ecco perché si è appassionato a questo Bonoli, se non sta entrando alla Parigi, ecco. Non è che sia venuto, cioè la gente venga con gli sbalzi di pressione, no? A lui è venuto uno sbalzo d'età e l'ha portato a avere 80 anni, 85. Può darsi che sia così, cosa vuoi dire? Non va più in treno. E poi sono programmi, diciamo, cioè, chiaramente un po' per le femminucce, non sono per i maschietti. I maschietti guardano roba d'azione, sparatoria, cose lì. Ma che bugetteria. Purtroppo, si guarda, questo programma dice che gli piace questo Bonolis e quindi mangia e poi si guarda a chi mangia verso chi chiude. Mangia e poi si guarda a Bonolis, ma dimmi giù. No, per carità. Io potrei avere tutti i film che voglio, perché c'ho cose lì Netflix, ma giusto la sera riguardo qualche serie televisiva, qualcosa, ma poi no. La trasmissione Rai dalla TV normale è rara, capito? Lo sai chi era? T-U-A, quello di ieri sera che era con noi parlando, forse lo conoscerai. Era voglia, Alfredo, sì, c'è anche dove di fronte a Antonio. Scappa. Mi pare che piano piano le conviene trasferirsi tutti qua e se continua così. Io la voglia, almeno se vi posso. Guarda, sembra assurdo dirlo, ma gira gira ci abbiamo nostalgia anche di quelli là, te le ricordi quelli di Sturbava, ma sono portanti, eccetera. Aspetta, come Antonio lo stesso, sono da tantissimo tempo che non lo vedo. Stavamo lavorando anche assieme parecchie volte. Sì, Antonio, quello che abita di fronte alla Fredo. Sì, e Dio. Sì. Ma lui appena libero va fuori stanza, no? Non se ne sta qua, le piace il mare, pesca, e fa bene, non se ne sta intanato, anche se adesso penso che il mare sia un po' tosto da affrontare, perché è sempre mosso, e poi soprattutto freddo. Quando ebbe du tempo, magari, quando è bel tempo allora già va. Sì, vabbè, ma se sei Alghero esci, ti mangi una pizza, ti fa una passeggiata al porto, sai, dove anche a Porto Torre, dove c'è il porto, c'è sempre qualcosa da vedere, ti fa la passeggiata, te ne ritorni a casa e passi la giornata. A Sassari è, per carità, dove vai? No, non c'è tubo più che cosa lì, che Auschwitz e qualche altro, oltre no, non altra cosa, ecco. Io mi alza, non sa, mi sa che c'è anche la casa al Ghero, lui, Antonio. Sì, c'è anche la casa. Fine settimana ce l'ha sempre, molte volte l'ho accompagnato in radio perché da qua era abbastanza favorevole. E niente, ma si sta mettendo un nuovo vento, cioè c'è questo vento malefico, proprio ghiacciato. No, c'è ancora luce, verrebbe bene anche a fare qualche tiro, ma col vento poi si fermano le mani, non c'entro in tubo alla fine. Sì, infatti, già sono un anno, cioè un anno sono che non si va dal campo, che è chiuso e non sa nulla. Ho capito, ma tu non fai qua qualcosa, no? Poligono, di via poligono per l'appunto. Ah, lì non mi piace. Sì, vabbè, mancanza d'altro, poi dipende, quello va bene per la pistola, ma meno male sono uscite fuori le carabine del potenziato, se no era veramente triste. Ma per le armi vere sono uscite tante di quelle restrizioni che non ne hai idea. Insomma, alla fine lui con l'arma vera si è costretto al poligono, c'è poco da fare. Non puoi, il grosso vantaggio di quelle del potenziate è che in ogni caso ti puoi sempre allenare, e poi lo puoi fare anche in casa, cioè in casa nel senso che chi ha un po' di terreno sufficiente per fare il tiro, stanno sempre attenti perché insomma non è un giocattolo, ecco, è sempre un'arma. E ti diverti, spari i tuoi 50 colpi e sei a posto. E infatti, puoi sparare solo una cinquantina di colpi via al poligono. Le cartucce te le devi comprare lì. Io addirittura me le ricaricavo, quelle della pistola, perché noi sparevamo un bel. È diverso dal poligono, capito dove vado io. Cioè dove andavo io. Certo l'hanno chiuso. Già c'è Auri, ma cosa troppo a iscriversi, sono beccari, c'è Auri, però non è operativo, è sportivo, tiro dinamico sportivo è Auri, non è operativo come dove andavo io. Ma devi almeno posare le tue munizioni. No, neanche lì. Non ho capito. Sì, ho detto se almeno lì puoi usare le tue munizioni o le devi comprare lì. Ah, oh, già le puoi usare lì. A lui le puoi usare. Perché sono campi di tiro, capito? Invece al poligono le devi comprare da loro. Allora sai quante ne ho trasportato quando facevo collettavo? Non ne hai idea. A pedane e poi gubisavano i sigari. Sono cassette piccoline, ma lo sai quanto pesa? Ma cosa sono? Perché quelle. Le potenziano? No, sono cartucce commerciali, però loro deve essere che le pagano a poco prezzo e ci guadagnano, capito? E te le vendono a te, poi sono in piombo rigorosamente. Io di queste che c'ho qua non ne posso sparare manco una, perché gli ho messo le palle blindate, quindi no. Cosa c'è, la calibro 9? O la 765? 9x21, perché 9x19 non le possiamo usare, che devo usare l'esercito. Sono 2 mm più lunghe quelle che uso io. Cos'è il calibro 9 parabellum, no? Che militare? Le mie sono più lunghe del parabellum, capito? È un calibro che hanno fatto apposta per noi civili. Infatti se io do una cartuccia mia a quelli della polizia non gli chiudo la pistola perché è più lunga la cartuccia. Bisognerebbe cambiare tutto. Ci sono anche quelle che cambi la canna, eccetera, e funziona. Infatti. Quelle della polizia sono più corte, sono di 2 mm. Infatti molte volte raccoglievo i bussoli di lavoro e mi toccava smontare le cartucce, perché loro venivano a sparare da noi, no? Polizia, carabinieri, finanza, i vigili, vabbè, quelli che hanno la 9x19. E se ti confondevi e la caricavi usciva la palla tutta fuori, capito? Me ne accorgevo subito che erano parabellum e allora le smontavo. Ma la polizia adesso dovrebbe avere il poligono interno, se non ricordo male. Ah, vengono da noi, anche quelli della stradale. Quando facevamo le gare, casta. Li dovevi vedere, ce n'è gente che spara bene, però quelli che sparano bene vengono da noi, se no non dà, se ne manca la lampada. C'era addirittura uno di quelli vestiti di nero che non aveva mai sparato la pistola quando è venuto da noi, perché lui sta al centralino, capito, non vesti mai, era nuova. Vabbè, cazzo. No, allora ho capito che aveva passato il polimone interno, che l'aveva passato fatto. Il classico casco automatico, no? Che spari e arrivano i battagli poi senza muoversi. Ah, loro poi venivano lì perché noi facevamo tirodinamico operativo, e cioè le cose che insegnano a loro gli interessa sparare da vicino. Perché là che siamo 25 metri così e poi ti sto. Ehi, nel poligono sì, a 25 metri, devi fare anche il remo, petal, tu, 5 colpi per volta, se no guai. Il caricatore da 15 anche sulla 9F. Anche la mia, io la mia, quella che ho io è migliore di quella che hanno loro, più leggera, più giusto. Io ho la Glock 17, quella militare, no? Però è 9x21 e c'ha 2 mm più lunga la cartina. Ma è precisa al massimo, a 25 metri me ne faccio una risata, allora li mettono i cartelloni. Io mi mettevo quelli per carabina che erano più piccoli, figurati, oppure quelli dove c'è la figura dell'uomo, no, quelli lì mettevo io. Ah, perché te devi mettere pure tu i cartelloni, non sono... vabbè, c'hai la cosa, come si chiama lì, non c'è termine, insomma la caruccola, dai. Ma i cartelloni, i battagli ce li hanno loro? Sì, te li danno, no, quanti ne vuoi, te li metti e spari, molto più vuoi. Quando fanno le gare che sono predisposti da loro e il percorso che devi fare. Ah, ho capito, quindi solo che su quel calibro sono calibri un po' grossi, posso capire la polizia, ma gli altri che sparano con quel calibro, su quella cosa io avrei preferito un 22, guarda, ma soprattutto perché è molto più economico. E vabbè, anzi, il calibro 9 è economico, non sparano altri calibri perché il più economico è il 9. Cosa ce ne facciamo della 22? Mica siamo al poligono. Non dobbiamo fare gare a livello nazionale o chissà che. Dobbiamo, capito, c'è un vigile urbano di sotto. Se tu lo vedi sparando, ti fa bene. Quello c'ha la Glock 17 come la mia, perché con la pistola in servizio non spara. Per allenarsi usa quella lì, da noi. Solo quando fanno le gare e gareggia per i vigili urbani, allora porta quella di servizio. Perché devi essere autorizzato, non è che la puoi portare così, non la pistola di servizio. Certi non vogliono, certi comandanti e non la vuoi della staffa di questa passport, solo per servizio. Sì, il regolamento è che diciamo i vigili urbani sono limitati perché sono cose comunque locali a livello comunale, oltre al comune non sono più operativi, diciamo così, non sono più in servizio. Mentre invece le altre forze, polizia, carabinieri e finanza, quelle sono a livello nazionale, la polizia a livello di Stato, capito? Quindi l'arma la possono portare da tutte le parti, anche se poi ti comprano le cartucce. E soprattutto loro non le possono comprare le cartucce, e quello è il brutto. Capito? Gliele comprava l'istruttore mio a loro. Perché se no loro cartucce non ne possono comprare, no? Se non ne hanno porto d'armi. Lo so, c'è il caricatore della pistola più... adesso non me lo ricordo, se uno o due caricatori di riserva come rotazione. Vabbè che poi sono 15, dovrebbe essere 45 colpi, non è poco. Lui che non ne hanno, hanno un caricatore solo, se stavano lottando per avere il secondo caricatore, loro, figurati. Io ne ho 4 per la mia di caricatori, addirittura sono limitati a 15, perché sennò la mia nasce con quelli da 17, solo che se c'è quello da 17 lo devi denunciare. Quella lì è, ma adesso non ricordo, non vorrei sbagliare, ma la Glock può sparare anche a raffica, no? Cioè tenendo il grilletto premuto fa l'effetto raffica, non è una bella raffica, però è un colpo ripetuto in automatico. No, no, non spara a raffica, non deve sparare a raffica. La mia sparava a raffica perché era guasta. Mi si era guastata, nel senso che mi si era messa in traversa la sicura al percussore e sparava a raffica, roba da chiudi, vado al campo una mattina e mi uscivano i colpi a raffica, l'ho dovuta smontare e metterla a posto. Sì, no, non quella perché era guasta, ma dico che volendo ci sono le versioni che sparano anche a raffica, ecco. No, ci sono delle modifiche da apportare per fare la raffica, però non te la possono vendere con quella modifica, capito? Perché c'è la fare per bloccare, proprio un colpo alla volta devono sparare. Sì, sì, d'accordo, però ci sono, c'è un nuovo effetto, l'ho visto, non credo che serva a niente, tra virgolette, anzi non lo usa nessuno. Anche su, che ne so, su MAB, su M12, dalla Beretta, allo stesso consigliano sempre il colpo singolo, perché ho perlomeno una raffica proprio breve di 3 colpi, ma anche sulle altre armi, quelle dell'esercito, non mi viene, di nuovo c'è l'assalto. Vabbè, comunque anche sul fucile d'assalto consigliano di non sparare a raffica, perché se no fa bro e poi c'è il fucile scarico, a parte che poi la precisione va a far bene via, massimo 3 colpi. Infatti c'hanno molte, c'hanno il leveraggio per mettere questi 3 colpi, non sparare a raffica da 3 colpi e basta. E infatti è uno spreco di colpi. Ma la mia era precisa a me quando sparava a raffica, perché io la tenevo tu, e andavano tutti lì. Perché riusciva a tenerla ferma, ma insomma non è che... Comunque secondo me il calibro 9 è stato sempre un calibro un po' esagerato, come tipo il 38 Magnum, quelli lì. Cioè non stai andando a cacciare tanto, calibro 9 secondo me ti prende e te ne stacca un braccio, non è che sia tanto a scherzare, non è come si vede nei film. Già lo so, io ho la 765 pure, della Beretta, e me ne ridevo e non la portavo perché avevo vergogna, no? Quando ancora non avevo il porto d'arma sportivo. E allora sparavo con quella del mio istruttore, che invece di essere calibro 9 era una Glock 40 Smith & Wesson. Cavolo, quella sì che era di lusso. Sparavo un bel bene con quella. Perché ti vergognavi? No, capito, quella di norma dei poligoni, per lo meno dei poligoni classici, la 22 per il tiro di precisione. Non è un'arma... Cioè, non so, sicuramente avrai visto anche tu le prove balistiche di una 22, insomma è un'arma, non lo sai, no? Molte volte è l'arma preferita da certi killer, perché è facile piazzare il silenziatore e quelle cose lì, ed è micidiale lo stesso, se non c'è a mira... È una carabina, calibro 22 long range, e dici... solo che pericolosa, chi imbatti un bel ce l'ho la carabina con quel calibro, però la 765 non lo sapevo che era così potente. Ho detto portala, mi ha detto l'istruttore, che ti faccio vedere cosa fa la 765, l'ha presa lui, gatta di Versailles, mi trattava, cavolo, era una signora pistola, piccolina, mi. Sì, per che la gente guarda la grandezza della palla, la grandezza della palla è importante quando devi fare un'opera di arresto, quando devi ammazzare proprio l'eccesso di buttare a terra, diciamo, il nemico, quindi si utilizzano calibri grossi, però la 22 diciamo non è da sottovalutare, perché anche il calibro piccolo comunque se non trova attacco, quello cammina, cammina anche per un centinaio di metri, e se ti becca un centinaio di metri secondo me va a finire, sono cavoli, no, insomma, sono ferite importanti quelle. E lo so. No, è piccola anche come pistola quella 765, quella che avevano prima i vigili urbani, adesso hanno il 9 corto perché più grosso non lo possono portare. E ti dico che è bella potente, pari così. Insomma, infatti è per quello che all'inizio ti ho detto, meno male c'è la possibilità delle armi ad aria compressa, delle potenziate, perché se no, se abiti ad esempio qua in campagna, come fa a sparare? Già la carabina fa casino, non è differente, c'è anche il timbo. E figurati, se ti metti con un calibro 22 te ne arriva tutta la giustizia, ti arrestano. No, non è pensabile. Sì, ma neanche in periodo di caccia, perché poi quando spari quei due colpi a capodanno con la calibro 9, cioè sembra una cannonata, è assorda da vicino. Quindi è meglio non stare lì a rischiare. Prendi una bella carabina, ce ne sono di eccellenti, e così sei tranquillo che oltre quel tanto non va, perché se ti scappa il tiro e poi va dal vicino, lo sai poi come capita, sembra quasi una maledizione, ma l'arma spara in certe condizioni, intorno c'è il vecchietto che sta zappando, il bambino che sta giocando, quindi bisogna avere una prudenza al massimo. E infatti no, io manco a Natale o a Capodanno, qua non si può sparare, assolutamente, mi arrestano tutti. Infatti, quella che ho io è la carabina, è una sottomarca della Beretta, si sente, perché qua siamo all'aperto, eccetera, quindi i rumori si propagano, però nonostante sia l'aria compressa, che stai sparando si sente, però non è mai un colpo di fucile o di pistola. Io sento i cacciatori che sono a 2 chilometri che sparano, quindi figurati. Sì, già lo so già. E se non si spara con quel fucile a pompa anche io, oltre a buttarti nel braccio fa un casino della Madonna. Ma c'è il Frankis con me? No, un fucile turco è, manca. Non puoi sparare con quel fucile, te ne butta le braccia. No, perché il Franchi con la pompa è utilizzato dalle forze speciali, anche quelle americane, tra l'altro, quindi deve essere un'arma, lo usano per buttare giù le porte, no, sparano due colpi alle cerniere e ne scende la porta, butta giù porte. È micidiale quell'arma lì. Io l'ho provata, caricata a palla e a 50 metri, cazzo, pugna buchi. Ma quando il PAP, credo che si chiama, una cosa del genere, se non ricordo male. Mi sembra che abbia la canna più piccola rispetto agli altri fucili, dovrebbe essere lo stesso un calibro 12, ma non ho idea di che palle ci mettano per fare quegli effetti. Calibro 12, yes. Anche il mio c'è la canna corta, io non c'ho il tuo WhatsApp, se no ti avrei fatto la fotografia e te l'avrei fatto vedere, è spaventevole solo a vedere. Infatti, sono armi d'arresto proprio, d'arresto non nel senso che ti arrestano, d'arresto nel senso di che se si rompe con una persona le arrivano 3-4 pallettoni e lo scaraventano a terra, le fanno fare il brinco. E se non se lo carichi a pallettoni, sta la canna a 50 centimetri, però non ha né recupero di gas, nulla, è come che tu spari con una doppietta, figurati, perché c'è tutta la canna, ma la potenza è inaudita. Si chiama PAL 12, che è la pompa. Infatti è auto militare, c'ha una, sembra una mitragliatrice, è fatta con l'aspetto molto minaccioso, è micidiale, sì, lo sto guardando, e lo ricordavo bene, Spat 12, dalla Francia. E lo so, col beretta che avevo io, calibro 12, per andare a casa sparavo a una mano, figurati. Era recupero di gas, però dava pochissimo rinculo, dava. Questo cazzo è, non, una scatola di cartucce massimo si spari e c'hai le braccia a terra. Sì, sono armi, ma poi si vede che non è un, quello lì proprio non succede la caccia, a uso militare. C'è anche il coso del calcio da trattare, tutte quelle cose lì. Sì, una bella arma. Io ho il calcio normale nel mio, però ho anche nella scatola il calcio a pistola, se voglio gli metto il calcio a pistola e tolgo quel calcio lì. E diventa ancora più piccolo. Tu gli vai a sparare col calcio a pistola. E ti saltano le mani. Così. Ma la fanno ancora, sì, quella dell'ispettore Callaghan, cos'era? La. Oh, non mi viene, c'ho sulla punta della lingua. Era a 38 maggio. No, 44 era, cavolo. Mr. Weston calibro 44, modello 29. Ti dico pure un modello guida. Quelle ce le aveva povero Cesare, era fissato e sparava con quelle lì, cazzo, mi ha rinculo quelle a pistola. Sì, si vedeva. Un revolver, ancora, quanto era? 6 colpi, no? Figa. C'è anche quello, il 357 Magnum, che è bello, il GP100, cazzo. Quella è favolosa la pistola, c'ha le cartucce calibro 9, solo che sono lunghissime, no? Fanno una potenza, si rimuleggia il terreno quando spari, è 357, figurati con la 44. Sì, ma non ho capito, vestito sempre in abito, in giacca e cravatta, dove diavolo sta metteva una pistola del genere, cioè è troppo ingombrante. Hanno difficoltà i poliziotti con quel berrettone che hanno, cazzo, chi pesa un chilo e che cosa, se prendi mano la mia, la metà pesa, perché tu sta in polimeri, capito, quella che ho io, c'ha solo il carrello e la canna del metallo. Sì, vabbè, ma la 95F, anzi no, la 90, oh, non me lo ricordo più, la 92, che è rimbambito, mamma. È anche un'arma che c'ha la setta adesso, un'eccellente arma, l'hanno in dotazione anche l'esercito americano, che è tutto dire. Però adesso c'è la nuova, ci sono le nuove, anche se in polimeri, le ultime uscite dalla Beretta, sono tipo Glock, eccetera. Quello è lo stesso, sicuramente sono molto più leggere. Sì, ma non si possono manco avvicinare alla Glock. Tu pensa, i carabinieri, quelli del GIS, hanno la Glock, non ne hanno Beretta. Hanno la 17 come la mia, quella lunga. Figurati, proprio perché sono più precise, sono... Cosa se ne fa se mi deve avere? No, ti correggo. Allora, tutte le forze speciali, i carabinieri, finanza e polizia, c'hanno tutte le armi, c'hanno una serie di armi. Poi quelle che usano, a seconda evidentemente del gusto anche personale, perché di lì sono, sono, lo so, fanno un'attività un po' diversa da una normale polizia, sono attività di combattimento vero e proprio, quindi devono avere l'arma che più ritengono idonea, non c'è questa, come si dice, questo obbligo assoluto di avere l'arma all'ordinanza, di lì c'hanno 3, 4, 5 modelli d'arma, così di fucili, c'hanno quelli americani, c'hanno quelli italiani, c'hanno quelli svedesi, e se vedi quello che c'hanno in dotazione, tant'è vero che c'hanno anche, credo, libertà economica, cioè di spendere i soldi come ritengono opportuno per quello che riguarda gli armamenti. Devono saper armeggiare di tutto. Sì, ma quella che gli va più bene, certo, non ho capito, è individuale, penso, quella che gli va più bene si tengono. Sì, sì, devono saper sparare con tutto, oltre a sapere anche combattere, nel senso vero e proprio, quindi sono anche esperti la maggior parte di judo e altre discipline da combattimento. Usare il coltello, ma ci sono certi coltelli che sono micidiali, non parliamo poi quelli lo stesso anche del comando Moschin e gli altri del Consubim ad esempio, c'hanno anche armi subacquee elettriche, figurati. Sì, lo so, le forze speciali sono a parte. Sì, sto guardando il costo delle balestre, ci sono balestre che ti costano ad esempio quelle normali 30 euro, ci sono quelle a uso particolare per quella gente 1200-1600 con teleobiettivo anche. Sì, che hanno le carrucole per poterle caricare. È logico che questa ricostruzione, sai cosa fatto? Tutto polimeri speciali, ad alta elasticità per l'arco, eccetera, ma servono per colpire il silenzio, capito? Arriva quella cosa, te ne accorgi quando sei già morto. Ed è proprio silenziosa al massimo, perché senti il fischio e basta, non è anche come una fucile col silenziatore che senti, devi sparare da lontano in ogni caso, va tac, tac, tac. Quelle hanno una precisione enorme e poi non so neanche che calibro potrebbero definirsi, quelli che si misurano credo a chili di impatto, a giusto. Pure, sì, lo so, stanno le M5, stanno come tutti le invece delle M12. Infatti, la settimana stavo leggendo un articolo, no? Che tu sai che gli inglesi sono fissati con l'arco, no? Sono proprio terribili, lo sapevi, che è la loro una mania nazionale, ci sono addirittura i pub e così dove si riuniscono per, si litigano anche per queste cose, perché l'arco era così, l'arco era colà. No, non lo sapevo. Comunque è una cosa un po' nazionale, d'altronde Robin Hood è nato in famoso arco inglese che è molto lungo, molto potente, eccetera. E uno storico ha voluto metterci mano anche dal punto di vista diciamo balistico, perché loro dicevano che gli archi che usavano in antichità comunque non erano moderni come questi, eccetera, eccetera. E siccome hanno ritrovato i resti di una nave che è affondata, una nave militare del 1300-1500, hanno recuperato tanti di questi archi, no? E hanno guardato un po' come erano fatti. E lo sai che tecnicamente un atleta attuale con gli archi non li potrebbe usare? Penso proprio di sì. Magari erano anche più precisi di quelli moderni, e più potenti. Sì, erano decisamente più potenti. E il fatto che uno dice, ma come, questa gente era cioè nel 1300 erano tutti morti di fame, tutti gracili, eccetera, però c'è un piccolo dettaglio che non hanno mai considerato questi signori che facevano queste critiche, no? Perché loro puntigliavano che l'atleta da oggi quelli lì se li mangiava tutti, niente di più sbagliato, perché tutti gli arcieri inglesi iniziavano a fare gli arcieri dall'età di 3 anni, venivano addestrati, quindi tu figurati da 3 anni arrivare all'età diciamo adulta, che forza che muscolare proprio sulle braccia poteva avere questa gente. Infatti hanno recuperato anche dei cadaveri che erano in buono stato, gli scheletri, con le tecniche moderne hanno visto come poteva essere la muscolatura, si sono spaventati, ma d'altronde questi da 3 anni facevano la stessa cosa, no? E quindi puoi immaginare, è come il muratore che trasporta i sacchi di cemento da quando è piccolino, e quindi un po' di fisico se lo fa. Io ho visto questi carpentieri, ho avuto degli amici carpentieri, ma avevano certe braccia, sembrava che andavano in palestra di culturismo. Ma infatti è così. Adesso chi è che ha il proprio figlio di 3 anni e inizia a insegnarle l'uso dell'arco? Nessuno, sarebbe una follia. E lì invece di padre in figlio si iniziava con quell'attività. Era piccolini, quindi è chiaro che poi da grandi acquisivano una precisione e una maestria unica, come d'altronde anche i famosi nostri balestrieri che erano pisani genovesi, non lo sai, che hanno partecipato a varie guerre con i francesi e così via, sempre in quelle epoche lì, nel 300 e giù di lì. Anche balestrieri non scherzavano, anche se il caricamento era enormemente più semplice. Sì, infatti. Beh, loro dovevano andare in guerra e per quello è che li addestravano così. Infatti. Sono armi che erano anche all'epoca armi terribili. Armi micidiali. E qualcuna a distanza, a breve distanza, riusciva a forare anche quelle corazze lì che si mettevano, che erano abbastanza dure. Sì, vabbè, avevano le punte non arrotondate come quelle che usano qua, quelle da caccia, ma bensì chissà come erano fatte le frecce, capito? Era diverso. Sì, ne avevano parecchie, per ogni evenienza, c'erano quelle a cuneo, quelle fine da caccia, tantissimi modelli. E allora gli indiani d'America che avevano quegli arti? Sì, ma quelli erano leggeri, capito? Quelli invece che usavano gli inglesi erano proprio archi grandi, molto grandi, stiamo parlando di 1,80 m. Quindi si può immaginare, a quell'epoca non è che fosse più alto di 1,80 m per armeggiare una stessa del genere, ma erano significativamente più bassi, e quindi era una bella altezza all'epoca, ma soprattutto era duro, già dall'inizio, dal tendere la corda era micidiale. Che forza bisognava avere, se no mica ti tiravi con quegli arti. Se lo provo io non riesco neanche a tenderlo. No, ma neanche per scherzo. Sviluppava una potenza tale da far paura. Poi era il legno anche, utilizzavano il legno di tasso, insomma poi piume per le alette particolari, insomma c'era un'arte. Beh, erano fatte con cura quelle cose, c'erano proprio quelli che li costruivano queste cose così, no? Artigiani. E così. Mentre invece una delle più pericolose, sempre di guerra, che c'è stata ultimamente, che c'è ancora, penso, in versione ovviamente più moderna, è sicuramente l'MG42, non so se la conosci. Quella tedesca, sì. Sì, fabbricata anche dalla Beretta Pulcenti. E quella era chiamata la falce di Hitler, praticamente era un'arma terribile, non si inceppava mai. Andava a nastro, quindi finito il nastro, quindi si andava. Era una cosa spaventosa. Sì, secondo quanto ne sparavi dovevi cambiare la carta. Beh, non così facilmente, perché avevo intervistato un reduce dello sbarco in Normandia, tedesco però, quindi che sparava sulla spiaggia, e questo praticamente l'hanno lasciato davanti e adesso spostato in Perù, quindi è rimasto solo. È impensabile che un ragazzo, credo che avesse 17-18 anni all'epoca, sia riuscito a far fuori, credo, un migliaio di soldati con questo cavo di mitragliatrice lì piazzato in questo punto, a fasciare tutti quelli che sbarcavano. Era una cosa spaventosa. Sempre questa cassetta zeppa di questo nato, non so quanto fosse lungo, non si è mai inceppata quest'arma. Terribile. È terribile, sì. È dannosa. 42. Per i proiettili, non so se li hai mai visti i proiettili, sono terribili. Sì, 7,62 sono. E a pensare che adesso un 7,62 per 39 il Kalashnikov, lo sai quanto lo fai? Solo che non spara a raffica, perché non lo puoi far sparare qua a raffica. In cui dentro non c'è piganti nei buchi. No, il calibro di quell'arma era 8x57, che penso non è stato più un calibro del genere. Ah, 7,62x51 è quella NATO. Invece il Kalashnikov è più corto, è lo stesso calibro, solo che è più corto. Capito? Sì, allora quello che dici tu è quella recente, l'MG52-59, detta MG3 anche, che dovrebbe avere quel calibro lì, 7,52, ma la 42 è 8x57, quella ricco della seconda guerra mondiale, proprio di cui sto parlando io. Sì, lo so, lo so. Quelli nei fucili li mettono, quelli per 51. L'MG invece dovrebbe avere sempre lo stesso calibro. Sì, l'MG vecchia, la seconda guerra mondiale è 8x57, mentre invece l'MG52, MG3 dell'esercito, eccetera, eccetera, sono 7,62 NATO, perché poi, come sai, una città della NATO hanno unificato i calibri, ecco, tutto per una questione di approvvigionamento. E infatti intercambiabilità, no? Infatti nell'M12 della polizia sono 9x19 lo stesso, è il calibro che ha la pistola, uguale. Sì, è identico, stessa cosa. Perché l'abbiamo fatto una cosa, 7-5. Si è calmato, mi sa che si è calmato il vento. Ce n'è un pochino. Magari stanno per giù, ogni notte, siccome qua batte forte, no? Si sveglia la grandinata o la pioggia, che batte parecchio. Chissà, succede un po' dopo, mi sembra carico, quindi magari anche stanotte punta a capo. Sì, le 7 quasi sono, va. E non è entrato nessuno, manco un'anima. Oggi manco Giulio, è entrato, tutti a guardare Bonolis. Eh no, Giulio non lo può vedere, che dice che è maleducato. A con quello che si guadagna penso che saremmo tutti un po' maleducati. Oh, magari sta cena, però già a me lo stesso non mi è stato simpatico quel Bonucci. Io non lo guardo perché non ti ripeto, non mi piacciono le trasmissioni, mi guardo un film, un telefilm, giusto per passare la sera prima di andare a nanna, se no non fanno. Sì, infatti. Andiamogli ancora fuori, boh. È andata da una sua amica e ha tappato mai di vecchi. Donne sono, già lo sai. E non sei contento. Quando è lì, ti lamenti sempre. Quando vai c'è esce, poi ti lamenti perché esce. Insomma, no, non sei contento, Natale. No, che mi ha lasciato un po' solo, ma non troppo. Non deve lasciarmi troppo solo. Se no io me ne cerco una 18 anni e me la siedo in grembo. E mi faccio fare caro, perché io ho bisogno d'affetto, lì lo sta. Ehi, poverino, già non saresti solo tu a avere bisogno di una 18enne. Il fatto che non sta pensando a noi la 18enne. Ci vuole il portafoglio di Berlusconi perché si interessi. E così già mi ha detto mia moglie, e te col Viagra e col portafoglio a suo netto devi andare, spero. E allora? E così Natalie c'ha ragione, oramai a una certa età si deve rassegnare. Cazzo, lo sai che ho rinnovato la patente e ho dovuto pagare 87 euro prima e 7 euro dopo quando è arrivata, in 4 giorni mi è arrivata Gianfra, me le hanno lasciate tutte. Sì, ma adesso è così, vedi, una delle poche cose di buono che c'è che non devi più fare salti mortali, io la faccio sempre in autoscuola, infatti. Quando l'anno scorso, ma non ricordo, l'anno scorso, lo rinnovavo l'anno scorso, però 5 anni fa, poi l'avevo anche declassata perché era una scocciatura fare la visita, capito? Perché la mia era superiore di K e quindi ho iniziato a far fuori il K, poi a far fuori la D, mi hanno detto tieniti da B e almeno sei tranquillo, non ti rompo le palle, perché quando avrò un patente superiore, eccetera, sono molto più severi in tutto, giustamente. No? Poi fare tutte le vie di ferire non mi entra più niente, capito? E se non la usi, no, io ce l'ho la D e il CQC, perché il K ce l'avevano preso, io ce l'avevo la D pubblica, ce l'avevo. E praticamente il K ce l'hanno tolto e ci hanno dato questo CQC al posto del... adesso è inserito anche nella patente, ma ho lasciato anche la vecchia. Però se salta, quando mi scade, nella data del mio compleanno, vado un mese prima e me la rinnovo, mi faccio dare la B, perché per il CQC sto a pagare 350 euro, sì, no? E se non la sto usando perché devo andare a scuola, guida e pagare 350 euro, non saranno. Mi scade fra un paio d'anni, mi pare, fra 2-3 anni mi scade, però non è rinnovo. Quando vado a fare la visita me la faccio declassare, tanto sono già 65 anni, mi faccio rilasciare la B se sono vivo. Sì, no, io l'ho fatto già, Io l'ho fatto già perché... alcuni poi magari sono stati trovati, sono incappati nell'autovelox, no? Magari erano oltre 4 km di tolleranza, cioè o meglio, oltre 4 km in cui ti fanno male. E dopo un po' è arrivata la revisione della patente dalla prefettura, quindi dovevi ridare l'esame addirittura. E allora un conto è dare un esame per riaprire una patente di K, un conto è doverlo dare per una B, quindi per precauzione cioè, anche se io non ho mai preso autovelox, però mai dire mai, no? E allora adesso per stare più tranquillo, anche per comodità, preferisco la B, tanto in ogni caso sono 5 anni sempre. Meno male l'hanno fatte tutte in coincidenza e rinnovito con il compleanno, quando compri gli anni, dopo 5 anni, rinnovi la patente. Vabbè dai, ti lascio perché sto disturbando una persona che mi ha telefonato, mia moglie, Gianfra, che è un'amica. Ci sentiamo, va. Ah, ok, pensavo avesse risolto il problema, evidentemente. Insomma, compra un autocarro d'antenne natalizie e installale a tutti. Così almeno finiscono questi studi. Ciao, ci sentiamo Natali, buona serata, grazie per il questione. Okay.